radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Buongiorno a tutti, siamo a Salerno, Piazza della Concordia, Festa dei Popoli 2019. Io sono Michele Piastrella, con me ci sono Toni Cortazzo e Giulia Scalona per Radio Antenna Migrante. In questo momento con me c'è padre Alex Brai, missionario saveriano che è stato tra i fondatori, ben 11 anni fa, di questo magnifico evento di accoglienza. Distanza di anni, padre Alex, che intanto ha girato il mondo, ritrova questo stesso evento. Quali sono le tue emozioni? Certamente è una bella emozione, una bella sensazione quella di ritrovarsi qui proprio in questo momento, perché 11 anni fa iniziavamo con tante paure, tante difficoltà, perché eravamo appunto proprio all'inizio, e vedere dopo 11 anni una piazza così piena di gente, poi con tanti colori, tante nazionali, anche tanti nuovi popoli che non erano presenti il primo anno, certamente mi fa un grande piacere, segno che comunque c'è un'Italia che è sempre accogliente, un'Italia che ama la presenza di tanti stranieri, che sono per tanti motivi una ricchezza per noi, una ricchezza di cultura, e poi attraverso la musica, i balli e anche i racconti che vengono fatti qua sera scopriamo veramente le bellezze di tante culture che non possono che arricchirci. Io come missionario vado in altre parti del mondo ed è bello venire in Italia e conoscere appunto che ci sono gli italiani che arrivano a conoscere tante altre terre grazie alla presenza di questi stranieri che sono nostri fratelli e nostre sorelle, che possono veramente vivere con noi, condividere con noi come fratelli e sorelle. Da dove stai venendo, padre Alex? Sappiamo che sei qui per pochi giorni. Da dove arrivi e dove andrai a questo punto? Io sono stato vari anni in Africa, per 4 anni. Può arricchire con altri popoli, anche con le realtà magari più povere, no? Certamente, certamente, perché poi io sono missionario, sono sacerdote, ma tutti i cristiani, anche i laici, questo fa parte del nostro messaggio più, diciamo, più importante, quello di essere accoglienti e di aiutarci reciprocamente. Per noi l'esempio è Cristo. Cristo non guardava la nazionalità, non guardava tutte quelle cose che noi spesso guardiamo, che sembra quasi essere un ostacolo, la differenza come un ostacolo. Invece no, la differenza ci aiuta ad andare incontro agli altri, quindi anche nella povertà, nelle difficoltà, siamo chiamati ad aiutarci, a crescere insieme. Benissimo, grazie a padre Alex Brai. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Rieccoci, Festa dei Popoli 2019, Piazza della Concordia, undicesima edizione di questa magnifica kermesse. Questo momento sul palco c'è il Venezuela, c'è Nancy, portavoce della comunità del Venezuela. E interessante sapere che quest'anno la Festa dei Popoli è dedicata all'arte. Ciascuna delle comunità qui presenti ha portato in esposizione opere d'arte. Opere d'arte del loro paese, fotografia dei magnifici monumenti dei paesi qui presenti, o anche opere di artigianato talmente belle, talmente raffinate che davvero sembrano opere d'arte. Prima abbiamo fatto una passeggiata così tra i gazebo, siamo rimasti colpiti sia un po' dall'accoglienza, dalla voglia di mostrare queste opere da parte dei protagonisti, dei gazebo, da parte delle comunità straniere, sia in generale dal senso di entusiasmo e di gioia di partecipare a questa giornata. Mi correggo, Nancy è della comunità delle Filippine, non del Venezuela. Prima abbiamo parlato con lei delle Filippine, abbiamo saputo che addirittura a Salerno ci sono alcune centinaia di persone provenienti dalle Filippine. Ci sono ben due associazioni delle Filippine che si riuniscono ogni settimana, fanno le loro... si riuniscono in occasione delle loro festività, le loro ricette e quant'altro. Tutto questo serve ad arricchire la loro comunità e la nostra stessa comunità di Salerno. Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, dos, tre, sono già là. Fischio nell'orecchio, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da... Allora, continuiamo con lo show, questo palco su cui si stanno avvicendando le varie comunità straniere della Festa dei Popoli. In questo momento c'è la comunità delle Filippine. Interessante che ci sono delle ragazzine e i loro abiti sono fatti di carta di giornale riciclato, quindi un modo meraviglioso di riutilizzare la carta. Con me in questo momento c'è Francis. Hi Francis, how are you? I'm fine. farò un paio di domande a Francis in inglese. Francis è della Nigeria, he's from Nigeria. E ci dirà un po', insomma, della sua comunità, di quello che hanno fatto sul palco, di cosa ne pensa della Festa dei Popoli. So Francis, you're from Nigeria. How long have you been here and what do you think about this Festa dei Popoli? Yeah, to me, I've been here for 2 years now with my family. I'm in Fisciano with Spra di Fisciano. To me, what I see about Festa dei Popoli is a big and huge festa that is consists of culture and tradition. So it promotes people from different nationalities, different countries to come together to showcase their culture. So I think this is a very good festa, I think. Francis ci dice che è in Italia da 2 anni, lui fa capo allo SPRAR di Fisciano. È molto contento di essere qui, ritiene la Festa dei Popoli un bellissimo evento, un grande evento di condivisione che ha a che fare con la cultura, con le tradizioni, un modo per conoscersi meglio e stare bene insieme. What do you think about Salerno and about Italy? Do you like Salerno? Do you feel like a Salerno citizen now? Yeah, I like Salerno because Salerno is a very calm place, a good place to stay. And the people in Salerno, they are no violent, they are welcoming. So Salerno is a very good place to stay. Francis ci dice che Salerno è un bellissimo posto dove stare, ritiene che le persone di Salerno siano molto accoglienti, siano meravigliose. So what did you do on the stage? We hope the best for you, best wishes from us, from Radio Antenna Migrante. Francis ringrazia le persone dello SPRAR che gli danno accoglienza e protezione e quindi è felicissimo di essere qui e saluta tutti i nostri ascoltatori. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando foto. Torna al tuo paese, sei di qui perché qui da partorito una figa in che saresti il migliore. Fammi il favore, compare, qui non c'è fare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso, io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, io vengo dalla luna, io vengo dalla luna, io vengo, vengo. Ce l'hai con me perché ti fotto il lavoro, perché ti fotto la macchina o ti fotto sotto la luna. Cosa vuoi che sia poi? Non è colpa mia se la tua donna di cognome fa Pompilio come Numa. Dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman. Non mi prende che ti striscio la tua fiction e piscio su tuo show che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era. Stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero subito. No! È una proposta inopportuna. Dividi la terra, uomo, io voglio la luna. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna. Della vita reale, che invece prevedibile. sono il frutto di qualcosa già scritto su un libro che hai già letto tutto, ma io Allora, continuiamo la nostra diretta della Festa dei Popoli. Abbiamo qui Marta Chiaradonna, una dei, come dire, dei factotum che sin dall'inizio ha seguito la nascita di questo evento magnifico. Siamo all'undicesima edizione. Marta, cosa pensi di questa edizione? Traiamo un bilancio di questi anni di Festa dei Popoli. Beh, un'esperienza sicuramente in crescendo, perché ogni anno si arricchisce di partecipazione da parte del pubblico cittadino, ma non solo. Tantissime le comunità che si aggregano, e non solo da Salerno e provincia. Abbiamo anche qualche partecipazione extra dalla regione e non solo. Di questi siamo contenti. Siamo contenti che il messaggio universale che la Festa dei Popoli porta, uniti nella diversità, travalichi i confini per fare comunità. Quest'anno è dedicato in particolare all'arte. Sì, l'arte è la manifestazione artistica che ogni popolo ha e che quindi viene raccontata, perché l'arte è un educatore permanente, ci aiuta ad essere cittadini migliori, a prendere consapevolezza di noi stessi, della nostra identità, ma anche del linguaggio con cui gli altri popoli si esprimono. Ed è bello scoprire punti di comunione, così come le differenze, perché sono quelle che poi ci aiutano a creare una convivialità specifica, come quella che stasera è qui sul palco, ci permette di commentare, di condividere la bellezza, ciò che è bello, perché ogni popolo vuole manifestare un messaggio e lo fa con quello che la terra locale offre e mette a disposizione ai talenti e alla creatività delle diverse manovalanze. Benissimo, grazie mille a Marta Chiaradò. Grazie a tutti. Allora, intanto continuiamo la nostra diretta. In questo momento si sta esibendo una giovane esponente della comunità filippina con una bella canzone che probabilmente sentite in sottofondo. La cosa interessante di quest'anno è che, nonostante il caldo incredibile, la piazza è pienissima e gremita di persone, più degli altri anni. Siamo all'undicesimo anno e la Festa dei Popoli migliora, aumenta la sua intensità, la sua partecipazione, e questo è un fatto importante, insomma, di cui non si può che essere contenti. Ora, a breve, avremo anche l'arrivo sul palco, come vi dicevo, di alcune ragazzine, piccole esponenti della comunità filippina, con abiti tipici filippini fatti però di carta di giornale, e tra poco sfileranno, insomma, sul palcoscenico. Tanto vi ricordiamo che è possibile seguire Radio Antenna Migrante attraverso il sito internet Stranieri in Campania, o anche semplicemente attraverso il nostro canale Facebook, la nostra pagina Facebook, che è appunto Radio RAM, Radio Antenna Migrante. Quindi cercateci su Facebook. Thank you. Allora, ancora una volta vi ringraziamo per averci ascoltato. Sottofondo continua la nostra magnifica Festa dei Popoli 2019. Ricordo ancora i nostri contatti dal sito, possibile trovarci sul sito Stranieri in Campania, oppure ancora sul profilo Facebook, sulla pagina Facebook Radio Antenna Migrante. Grazie da Michele Piastrella, da Giulio Escalone, da Antonio Cortazzo. A presto per le prossime puntate. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranieriincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima. We'll be right back.